Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Leader e parlamentari europei verso l'Italia per i 60 anni dei trattati, ma i riflettori sono per il rischio violenze nella capitale. Linea dura, dice il ministro Minniti. E anche a Milano misure di sicurezza imponenti per la visita del Papa. Atterrerà alle 8 di mattina, Angelus in Piazza Duomo e pranzo a San Vittore coi detenuti. Londra sono 50 i feriti nell'attacco terroristico, due gravi. Ci sono stati nuovi arresti nella notte, definiti importanti dalla polizia. A Giugliano, in Campania, un ragazzino di 13 anni violentato per mesi da un gruppo di 11 coetanei o quasi coetanei. I fatti sono emersi nelle ore scorse. Dieta vegana all'asilo comunale, il TAR la impone su ricorso della madre, succede in provincia di Bolzano. Fine settimana sportivo ricco al via Motomondiale Formula 1, mentre questa sera l'Italia del calcio incontra l'Albania. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dove dovremmo essere in diretta anche oggi. In apertura dunque i due fronti che si aprono in queste ore che seguono l'attentato di Londra e che hanno portato ad innalzare l'allarme sicurezza. Roma e Milano, la prima alle prese con il vertice europeo e con il rischio scontri, la seconda che attende la visita del Papa. Iniziamo dalla capitale. 5.000 agenti, 15 chilometri di transenne, grate antisfondamento, 40 varchi di accesso presidiati, 100 telecamere in più, sono alcuni dei numeri del piano sicurezza messo a punto in vista della giornata di domani, quando a sfilare per le vie del centro saranno 4 cortei, 2 la mattina, 2 il pomeriggio, più vari sit-in. In tutto in piazza circa 30.000 persone, mentre 40 capi di Stato e di Governo si incontreranno in Campidoglio, area cosiddetta blu, che dal pomeriggio di oggi verrà bonificata e da domani interdetta a veicoli e pedoni. Potrà entrare solo chi è residente o si reca al lavoro, mentre attorno al Quirinale sarà una zona verde, cosiddetta cuscinetto, comunque vietata alle manifestazioni. Verranno poi sbarrate le linee della metro in centro, deviate 57 linee di bus, chiusi musei e zone archeologiche, mentre è già stato interdetto da questa mattina lo spazio aereo su tutta Roma, con il divieto di sorvolo anche dei droni fino a 10 km dal centro. La preoccupazione per domani è doppia: eventuali disordini da parte di frange minoritarie violente dei manifestanti, e dall'altra il rischio terrorismo, che dopo l'attentato di Londra si è ulteriormente innalzato. Misure rafforzate anche in Vaticano, dove alle 18 il Papa riceverà i leader europei. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per il vertice e per le manifestazioni anti-Europa previste a Roma, tra le misure di sicurezza anche restrizioni sui cieli della capitale, nessuna ripercussione sul traffico aereo, garantisce Giuseppe Daniele Carruba, direttore centrale regolazione aerea dell'ENAC, al microfono di Raffaella Calandra. Che ovviamente un evento di questo genere prevede l'attenzione di tutti. Ci sono appunto delle restrizioni per quanto riguarda l'attraversamento dello spazio aereo di Roma, al di là di quelle che ci sono abitualmente. La zona viene più allargata, c'è il pattugliamento da parte delle forze dell'ordine, quindi con elicotteri, ma ovviamente c'è la sorveglianza da parte dei mezzi dell'aeronautica militare, quindi restrizioni che ovviamente non sono avvertite poi dai passeggeri, perché non vengono interrotti i voli. Fiumicino, Ciampino continueranno a operare, ci sono limitazioni di altri tipi che prevedono magari appunto la chiusura dell'aeroporto dell'Urbe e altre situazioni che consentono, come dire, un veloce intervento da parte delle forze dell'ordine nel caso che ce ne fosse la necessità. E ovviamente c'è anche il fronte più puramente politico per questi snodi. Questa mattina è intervenuta tra l'altro Federica Mogherini, ci colleghiamo con Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno dall'Acquario Romano, dove è in corso proprio un Citizens Dialogue con la cittadinanza, alla presenza dell'alto rappresentante europeo Federica Mogherini e del premier maltese Josef Muscat. Partiamo però dall'attualità, e cioè dalla dichiarazione di Roma che dovrebbe venire firmata domani dai 27 leader. La Grecia oggi ha detto che firmerà la dichiarazione, in cambio però chiede aiuto all'Europa sulla riforma del lavoro e sulla protezione sociale. Oggi Angela Merkel, la cancelliera, ha detto occorre lavorare per un futuro comune, mentre il premier Gentiloni ha dichiarato no a un'Europa divisa, avanti avanti su un'idea comune di Europa. Dicevamo appunto di questo Citizens Dialogue, il premier maltese Muscat ha dichiarato che in apertura che l'attentato di Londra dimostra che non può esserci una Brexit della solidarietà, riferendosi appunto all'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea e dal fatto che comunque Londra ha bisogno dell'aiuto europeo anche nella lotta al terrorismo. Muscat ha aggiunto che non c'è bisogno di un dibattito solo sull'immigrazione ma anche sulla solidarietà, e qui chiaramente si riferisce alla necessità di Italia e Malta di avere un fronte europeo per essere aiutate nella crisi migratoria. E arriviamo poi a quello che ha detto l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini: l'Europa ha già una difesa comune, l'Europa è un progetto di pace, ha aggiunto, e ha detto esisterà il progetto europeo anche tra 60 anni. Vi faccio ascoltare un passaggio dell'intervento di Federica Mogherini e restituisco la linea allo studio. Siamo la parte del mondo in cui i diritti sono più rispettati, siamo la parte del mondo che dal punto di vista economico è cresciuta di più, la seconda potenza economica globale, il primo partner commerciale per tutti i paesi del mondo, il primo anche donatore di aiuti umanitari. Abbiamo molto di cui essere orgogliosi, abbiamo anche però molto su cui lavorare per cambiare la nostra Europa, il modo in cui riesce a rispondere ai cittadini. E in tutto questo giro di incontri i parlamentari europei sono andati in visita a Norcia. C'è là il nostro inviato Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. È così, possiamo dire dunque che passano anche per Norcia le celebrazioni per i trattati di Roma, visto che la cittadina umbra è stata scelta, come dicevi, per la sua visita nelle zone terremotate dell'Italia centrale dalla delegazione del Parlamento europeo, che è guidata dal presidente Antonio Tajani. Naturalmente questa è un'occasione per fare il punto sulla ricostruzione e ascoltare le richieste che arrivano dagli amministratori e dalle comunità colpite dal sisma. A questo proposito Tajani, oltre a portare la solidarietà dell'Europarlamento, ha ricordato che ammontano ad oltre 2 miliardi di euro le risorse messe a disposizione dall'Europa per le zone terremotate. Ma sentiamo le sue parole. Voteremo in plenaria questa decisione di permettere all'Italia di utilizzare fino a un massimo del 5% del totale nazionale, senza bisogno di cofinanziamento, i fondi regionali. Ecco, la visita della delegazione europea si sta concludendo proprio in questi istanti nel centro storico di Norcia, centro storico in parte distrutto dal sisma, come testimonia anche la Basilica di San Benedetto, patrono d'Europa, della quale è rimasta soltanto la facciata. È tutto da Norcia, Simone. E grazie dunque ad Andrea Viali anche per questo aggiornamento. Chiudiamo per il momento il fronte europeo, il fronte della sicurezza di Roma sulla quale torneremo più avanti, e veniamo invece a quello che succede a Milano che attende la visita del Papa. Lo ricordiamo anche qua, in questo caso siamo all'indomani degli attentati di Londra, poi arriveremo sugli aggiornamenti da Londra tra poco, e quindi anche qua le misure di sicurezza sono imponenti. Sentiamo. Sarà il coro delle campane di tutta la diocesi che suoneranno contemporaneamente ad accogliere il Papa, che intorno alle 8 atterrerà a Milano. La giornata di Francesco comincerà dalla periferia, abbraccerà gli abitanti delle Case Bianche, segno di quella chiesa in uscita tanto a lui cara. Il primo bagno di folla si terrà invece in Duomo, con accesso libero, dove il pontefice reciterà l'Angelus. Le periferie, come luogo privilegiato della Chiesa, secondo Francesco, fisiche ma anche esistenziali. E così il Papa si sposterà poi al carcere di San Vittore, dove si tratterrà anche per pranzo con i detenuti. Almeno in 700.000 parteciperanno invece alla messa nel pomeriggio a Monza, mentre allo stadio San Siro, ultima tappa della visita, l'incontro con 80.000 tra cresimandi ed accompagnatori. Una città blindata, quella che attende il Papa, con divieti di sosta e di accesso alle auto private lungo i percorsi e alcune fermate della metropolitana chiuse, molte deviazioni per i mezzi pubblici. Imponenti misure di sicurezza, dunque, con tombini, orologi pubblici sigillati, varchi con metal detector, 1.500 uomini delle forze dell'ordine in campo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sarà un'occasione, dice l'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, non solo per i credenti ma anche per i non credenti. Proprio Katia Caramelli lo ha intervistato. Con questo Papa che entra con decisione e afferma la sua visione circa la finanza, l'economia, la politica, il rapporto con il creato, la giustizia, l'inequità, e dà soprattutto il suggerimento per ogni cristiano e ogni uomo di buona volontà di diventare attore per superare le contraddizioni presenti in questi mondi. Impossibile che le forze produttive, culturali, sociali e politiche di Milano siano disattente. Lei ha detto che il Papa in questi 4 anni di pontificato ci ha dato la sveglia. È vero, ce l'ha data, direi proprio di sì. La sua provocazione è stata, cioè metterci di fronte senza sconti alla vocazione cristiana, è stata per noi europei un po' come un pugno allo stomaco. Ci ha detto: forza, cambiate, svegliatevi, e stiamo, per quanto siamo capaci, tentando di farlo. E ora andiamo a Londra, come si diceva, per l'aggiornamento sulle indagini. Counter-terrorism Command Investigation, Operation Classific. Centinaia di agenti del comando investigativo antiterrorismo, 16 perquisizioni in tutto il paese, 5 delle quali ancora in corso, e 2 nuovi arresti significativi in relazione all'attacco terroristico di Westminster, che portano a 9 i presunti estremisti in custodia. 3.500 testimoni sentiti e 2.700 oggetti sequestrati, tra cui massicci volumi di dati digitali. Sono i numeri della massiccia operazione Classific, che da mercoledì scorso prosegue senza sosta. Oggi Scotland Yard ha rivolto un altro appello a chiunque conoscesse Khalid Massoud per chiarire se fosse un lupo solitario ispirato da propaganda estremista o se sia stato invece incoraggiato, assistito o diretto da altri. Intanto emerge che il soldato dell'ISIS britannico avrebbe passato all'hotel Preston Park di Brighton il venerdì precedente all'attentato e la sua ultima notte prima di dirigersi nel cuore di Londra, dove ha ucciso 4 persone, ferendone 50, di cui 2 in condizioni critiche. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E ora la vicenda terribile che arriva da Giuliano in Campania. È una vicenda che lascia sgomenti, quella che arriva da Giuliano nel napoletano. Un 13enne con disabilità intellettiva è stato vittima di ripetuti abusi sessuali da parte di un gruppo di 11 minorenni, ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dopo la denuncia della madre della vittima, le violenze del branco si sarebbero protratte per molto tempo, si ipotizza per 4 anni, e sarebbero avvenute sotto minaccia, in strada, nell'abitazione di uno degli aggressori e anche su un campetto di calcio. Tra i presunti responsabili individuati, gli 8-14enni sono stati condotti in una casa famiglia, i 3-13enni invece sono stati affidati ai genitori perché non imputabili. Un episodio terribile, non ci sono parole, ha commentato il sindaco di Giuliano Antonio Pozziello, annunciando l'istituzione di uno sportello per la prevenzione del bullismo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro che arriva da Giuliano. Cambiamo decisamente argomento e veniamo alla politica economica italiana con Vincenzo Miglietto. Un punto a partire dalla proroga della rottamazione delle cartelle dopo le tante code che abbiamo visto in queste ore nelle sedi di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene, appunto, la proroga dovrebbe arrivare, Vincenzo. Eh sì, è così, Simone, buongiorno. Una decisione, quella di Palazzo Chigi, che viene incontro ad un'evidente richiesta dei contribuenti e che punta ad evitare che proseguano quelle lunghe file, lo ricordavi, anche notturne davanti agli uffici di Equitalia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato allora un decreto che proroga dal 31 marzo al 21 aprile la scadenza per fare domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. Equitalia e gli altri enti della riscossione avranno più tempo per rispondere ai contribuenti, non più entro il 31 maggio ma entro il 15 giugno. Ricordiamo i numeri probabilmente inattesi della cosiddetta rottamazione delle cartelle: sono infatti 529.000 le istanze di definizione agevolata pervenute ad Equitalia al 20 marzo. Altro fronte del governo, quello dei conti pubblici e i rapporti con l'Europa. Faccia a faccia questa mattina tra il ministro Padoan e il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis. Da quest'ultimo un segnale di fiducia a Palazzo Chigi sulla correzione dei conti pubblici, ha detto, pari allo 0,2% del PIL: c'è un impegno molto concreto reiterato da tutti i ministri e da tutto l'establishment. L'Europa riconosce il nostro impegno, ha replicato il ministro dell'economia Padoan. Ascoltiamo questo passaggio. La questione del debito è stata affrontata già nella cosiddetta procedura 126.3, in cui si valutano gli sforzi di un paese che ha il debito ancora fuori dai limiti richiesti. Mi sembra che fino adesso, dalla interazione con la Commissione, gli sforzi vengono riconosciuti e quindi stiamo andando nella direzione giusta. Queste dunque le parole di Padoan. Il nodo infine dei crediti deteriorati è un problema da affrontare anche in Europa, ha detto Dombrovskis. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E visto che abbiamo parlato di politica economica, adesso ci occupiamo di una persona che spesso anche da questi microfoni ci ha aiutato a commentarla, oltre che sulle colonne del Sole 24 Ore. Parliamo dell'economista Giacomo Vaciago, che se n'è andato. L'Italia è un paese che non sa funzionare fuori dalla banale normalità di un giorno normale in cui tutto va bene per miracolo. Il professor Vaciago era così. Quando parlava era schietto, semplice, diretto e con leggerezza mai superficiale diceva cose anche terribili di questo paese, ma spesso, molto spesso, vere. Se n'è andato a 74 anni. L'Università Cattolica di Milano è stato il suo mondo. Si era laureato qui nel 1964. Nell'89 era diventato ordinario di politica economica e direttore dell'Istituto di Economia e Finanza dell'Ateneo. Nella politica, analizzando l'andamento del paese, il professor Vaciago ha sempre navigato e di cosa pubblica si è occupato in prima persona da sindaco di Piacenza e da consigliere economico prima del Ministero del Tesoro, poi della Presidenza del Consiglio. Si poteva non condividere la sua visione dell'economia, ma per noi giornalisti era sempre disponibile alla spiegazione e anche al dialogo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo allo sport, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e ci raggiunge dunque al microfono e anche in video a questo punto. Ma Carlo, mi vedono? Gento. Ti vedono? Ma no, veramente? Sì, sì, dove sì. Sono che faccio ciao? Guarda con la là, fai ciao con la manina, ciao. Perfetto, ci siamo. Iniziamo dai motori, Carlo, vai. Iniziamo in maniera seria. No, allora, motori, questa mattina prima è primo vagito del mondiale con le prove libere in Australia. Indovina chi è primo? Chi? Hamilton. Ah, pensa. Novità assoluta. Hamilton, quindi, davanti a tutti. Però la Ferrari insegue. Vettel è secondo a mezzo secondo da Hamilton sulla Mercedes. Terza l'altra Mercedes, con Bottas. Quarta l'altra Ferrari. Quindi speriamo quantomeno di poter inserire la rossa in questa lotta, facendo attenzione alle Red Bull che sono subito dietro con Ricciardo e Verstappen. Domani mattina alle 7 le prove per la prima griglia di partenza della stagione. Sì, poi il motomondiale. Poi c'è il motomondiale, che invece, essendo in Qatar, vedremo da questa sera. L'appuntamento qui importante è domani alle 19 per la prima griglia stagionale del motomondiale e tutti incrociamo le dita per Valentino Rossi, almeno io lo faccio. E poi permettimi l'autopromozione da oggi. Guarda, te l'avrei chiesto io. Da oggi un appuntamento speciale sui motori. Tutti no? I convocati dedicheremo da qui per tutta la stagione motoristica l'ultima parte di tutti i convocati, quindi dopo il GR delle 15 fino alle 15:30, proprio ai motori con due voci che i nostri ascoltatori conoscono, Roberto Ungaro e Leo Turrini, che saranno nostri ospiti fissi, nostri commentatori fissi, insieme ovviamente ad altri ospiti, e parleremo esclusivamente di questa stagione motoristica. In breve l'Italia di stasera. In breve l'Italia di stasera, beh, è una partita da vincere per forza. Dispiace per l'amico Gianni De Biasi che allena l'Albania e per cui facciamo il tifo in ogni altra occasione, ma a Palermo bisogna vincere. Con un'Italia molto offensiva, Buffon in porta, tutta l'esperienza dietro con Barzagli e Bonucci, poi De Sciglio e Zappacosta invece che sono ragazzini, è un'Italia molto giovane, a centrocampo De Rossi a fare da guida, a Verratti e poi Candreva, Belotti, Immobile, Insigne, questa è la formazione, 20:45 si gioca anche la Spagna, nostra avversaria principale nel girone, contro Israele, sorpresa, perché Israele, dopo aver perso la prima proprio contro gli azzurri in casa, ha vinto le tre successive partite, quindi è a 9 punti, ha battuto la Macedonia in trasferta, ha battuto in casa il Liechtenstein e ha vinto 3-0 in Albania. Allora, grazie a Carlo Genta. Chiedo scusa, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Chiedo scusa ai colleghi che si occupano degli aggiornamenti sulle strade per il ritardo nella linea che gli stiamo dando, ma oggi è andata un po' così tra le tante vicende. Ci ritroviamo subito dopo. C'è il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Merano, dove il TAR costringe il comune a fare la dieta vegana per i bambini che lo richiedano in asilo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati del vertice europeo di Roma e dei rischi per la sicurezza, della visita del Papa a Milano, degli aggiornamenti sull'attentato di Londra, di quello che è successo a Giuliano in Campania, dove un ragazzino di 13 anni è stato violentato a quanto pare per anni da un gruppo di 11 coetanei o quasi coetanei. Infine ci siamo occupati di sport con il calcio e i motori. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Merano, siamo in provincia di Bolzano, siamo in linea con Andrea Rossi, che è il vice sindaco del comune con delega all'istruzione scolastica in lingua italiana, assistenza scolastica e molto altro. Tutta la qualifica impiegherebbe metà della trasmissione. Eccoci Rossi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, succede questo, succede che una mamma vegana porta il bambino all'asilo nido, chiede all'asilo nido di fare una dieta vegana per suo figlio, l'asilo si rifiuta, e lei ricorre al TAR e sostanzialmente vince. Quindi da questo momento voi siete costretti a fornire, diciamo, a imporre all'asilo di fornire pasti vegani al bambino. Non è esattamente così, nel senso che è vero, la famiglia, la mamma ha fatto ricorso al TAR e il TAR le ha dato ragione, ma le ha dato ragione su un aspetto formale, nel senso che il TAR, almeno per quello che abbiamo saputo, lo avremo in mano la sentenza la prossima settimana, dice che l'amministrazione comunale si è limitata a elencare un elenco di 4 menu diversi da quello standard, che ferma essere appunto previsti, come abbiamo indicati già dall'inizio dell'anno, ormai da anni, e non indica in base a quale norma, a quale atto si faccia questa scelta. Quindi è un appunto alla motivazione per la quale il Comune di Merano riconosce alcuni menù e altri non riesce a garantirli. Sì. Queste motivazioni alla mamma naturalmente sono state date e sono state fornite. È ovvio che un atto pubblico è diverso da un colloquio privato. Sì, in sostanza, come dire, dovevate voi come comune dovevate indicare a quali norme facevate appello per il fatto che non fornirete il menù vegano. Esatto, a quali raccomandazioni facevamo riferimento e a quali supporti anche medici e nutrizionali per dare queste indicazioni. E questo è quello che noi alla famiglia abbiamo dato, sì. Ovviamente mancava l'atto formale. Sì, no, perché vice sindaco, lei capisce che fronte di preoccupazione altrimenti si potrebbe aprire, perché finché siete voi, che siete una provincia autonoma e tutto in una provincia autonoma, tutto sommato in una zona ricca del paese, è un conto. Penso una cosa di questo genere applicata in una città come Milano o anche in altre città d'Italia, no? Con meno soldi sarebbe terrificante. Ma dunque, il tema della dieta vegana applicata ai bambini, quando per gli adulti vuol dire una scelta tutta personale, applicata ai bambini, poi ai bambini e ai minori che frequentano le mense scolastiche, è ovviamente un tema che interessa molti comuni. So che in molte realtà italiane, Bologna, Torino, Firenze, si sono trovate o non trovate delle soluzioni, non c'è una linea comune tra tutti. Noi ci siamo affidati alla nostra azienda sanitaria per avere delle indicazioni e dei parametri nutrizionali e scientifici, e la nostra azienda sanitaria sulla dieta vegana ha molte, applicata sui bambini, ha molte resistenze o la guarda con molta diffidenza, carenze nutrizionali, rachitismo, mancato sviluppo. Quindi da loro abbiamo ricevuto l'indicazione, visto che è con loro che prepariamo le diete, a non riconoscerla, a non offrirla, ecco, non più che riconoscerla. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e veniamo a Torino nel nostro giro per l'Italia con Alberto Sacco, assessore al commercio. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. Allora, leggo dai titoli dei quotidiani, edizioni locali, in realtà dei quotidiani nazionali: Torino tassa per i rifiuti con lo sconto ma soltanto per gli ambulanti. Cioè, da quel che ho capito, la vostra idea sarebbe di far pagare meno la Tari agli ambulanti e caricare questo sconto su famiglie e supermercati. È così? No. No, nel senso che, nel senso che su famiglie, vabbè, l'aumento, anzi, allora correggo, sulle famiglie c'è un aumento dello 0,9%, che vuol dire niente. Sui supermercati c'è un aumento, sulla grande distribuzione c'è l'aumento, ma è quello che abbiamo. E sugli ambulanti c'è uno sconto? C'è uno sconto del 10%. Allora, importante, Torino ha 42 mercati, aree mercatali. Quindi mi scusi assessore, allora le due cose facciamo finta che non siano collegate, non sono collegate, però l'aumento per i supermercati c'è e la diminuzione per gli ambulanti c'è. Sì, assolutamente. Ok, perfetto, benissimo. 10% no, era per capire, in meno, 10% in meno sugli ambulanti alimentari. Sugli ambulanti alimentari, poi sono quelli che sporcano di più. Sono quelli che sporcano di più. E gli fate lo sconto. E gli facciamo lo sconto perché Torino ha il record italiano di spesa più cara per gli ambulanti e ha una situazione drammatica dei mercati, ne siamo assolutamente consapevoli e quindi cerchiamo di aiutarli. Cercate di dargli una mano sostanzialmente. Cerchiamo di dargli una mano, anche poi facciamo anche un altro sconto alle aree mercatali, che sono praticamente i mercati con pochi banchi, per capirci, dai 2 ai 6, e anche loro pagheranno meno. Ma i commercianti, quelli normali, diciamo, non i non supermercati, che cosa dicono su questa cosa qua? Perché io, non lo so, se fossi un commerciante direi, ma come, tagli la Tari all'ambulante e non la tagli a me? Beh, certo, assolutamente. Però guardi, io non sono un politico, perché sono un avvocato ed è da 8 mesi che ho iniziato questa chiamiamola avventura. Ho imparato una cosa: qualunque decisione tu prendi, qualcuno fai scontento. Ah, beh, quello, l'unico modo che per non fare scontenti qualcuno, stamattina sono stato attaccato da un simpaticamente da un consigliere del PD che mi ha detto le stesse cose che diceva lei. Se non avessi fatto l'abbassamento alla tassa raccolta rifiuti per gli ambulanti, sarebbe venuto da me e mi avrebbe detto: sì, però non fate niente per i mercati. Quindi chiaro che devo prendere delle decisioni. Sono rassegnato che qualunque mia decisione ci sia una. Ah, beh, una il destino di chi entra in politica anche da esterno, cioè non è che cambia molto. Anzi, è il destino di chi prende decisioni. Fai sempre inevitabilmente scontento qualcuno. Però guardi, abbiamo 42 mercati. Sì. I signori dei mercati sono veramente in una situazione drammatica. Io adesso sto facendo un lavoro importante, li sto incontrando tutti, sto ridistribuendoli, riorganizzandoli, accorpandoli. Era giusto iniziare a dare un segnale, anche perché Torino ha veramente delle tasse sui mercati Troppo alte. Vabbè, vedremo cosa succederà, vedremo come andranno a finire questi provvedimenti, assessore, vedremo soprattutto come reagiranno le altre categorie produttive, che immagino qualcosa da dire lo avranno. Intanto la ringrazio, grazie Alberto Sacco, appunto, che è assessore al commercio del Comune di Torino. Le auguro buona giornata. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre, e poi torneremo a Giuliano per quei fatti terribili che vi abbiamo raccontato anche nella prima parte della trasmissione. Cerchiamo di farlo ovviamente con la massima delicatezza possibile. Sentiremo il sindaco, che ha detto che vuole istituire da lunedì un nuovo centro contro il bullismo, e poi a Roma di nuovo per la questione della sicurezza, perché quello che ci si può aspettare da questo fine settimana, sempre qua sulle frequenze di Radio 24, sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Ci sentiamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. In apertura, nei nostri titoli, una notizia appena battuta dalle agenzie: il Tribunale del Riesame ha deciso che Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato il 1 marzo scorso per corruzione nell'ambito dell'inchiesta romana su Consip, resta in carcere. Leader parlamentare europeo in Italia per i 60 anni dei trattati, riflettori sul rischio violenze nella capitale, linea dura, dice il ministro Minniti. E anche a Milano misure di sicurezza elevate per la visita del Papa. Atterrerà alle 8 di domani mattina, Angelus in Piazza Duomo, e pranzo a San Vittore coi detenuti. A Londra sono 50 i feriti nell'attacco terroristico, 2 sono gravi, ci sono stati nuovi arresti nella notte, definiti importanti dalla polizia. A Giugliano, in Campania, un ragazzino di 13 anni violentato per mesi da un gruppo di 11 coetanei o quasi coetanei. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. E veniamo ad una vicenda che cerchiamo di affrontare veramente con la massima delicatezza possibile. È una vicenda terribile che arriva da Giugliano in Campania, dove ve l'abbiamo raccontato nelle nostre cronache, un ragazzino di 13 anni si è scoperto che è stato abusato per anni da dei suoi coetanei, a quanto pare addirittura per 4 anni. Le notizie che ci arrivano da Giugliano in queste ore sono le dichiarazioni, per esempio, di Tammaro Iavarone, da oltre 20 anni volontario per i giovani di questo del quartiere dove sarebbero avvenuti i fatti. Dice: una tegola che ci è caduta addosso, se fosse vero, e stento ancora a crederci, hanno distrutto 20 anni di lavoro. Antonio Pozziello è il sindaco di Giugliano. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, le sento insomma la voce ovviamente addolorata da quello che è avvenuto. È qualcosa di terribile che lascia sgomenti. Io, oltre a essere il sindaco, sono anche un genitore, una figlia di 14 anni e un ragazzino di 11, e l'idea che nella mia città e sotto il nostro naso possono essere capitati episodi del genere è terribile, è incommentabile. Manca qualcosa, sindaco? È chiaro che è un po' troppo presto per dirlo, forse, e la stessa testimonianza che arriva da Giugliano, la stessa testimonianza di Iavarone, testimonia che forse qualcosa c'è, cioè c'è una società civile che si muove, ma evidentemente forse non basta. Probabilmente no, e bisognerà interrogarsi su cosa altro fare. È una pura coincidenza. Noi lunedì approveremo una delibera per l'attivazione di uno sportello per la prevenzione del bullismo, che è la fine di un percorso lungo in cui noi abbiamo messo insieme le scuole, abbiamo utilizzato i professionisti che abbiamo sui servizi sociali, proviamo a metterli in rete, quindi andiamo a costruire ufficialmente questa rete lunedì. Ma c'è qualcosa su cui interrogarsi, ed è anche il ruolo della famiglia e il modo in cui noi possiamo supportare la genitorialità, perché è evidente che in questa storia ciò che è mancato, oltre alla nostra capacità di capire subito e individuare per tempo questa brutta storia, e anche il ruolo della famiglia di questi minori. E forse bisognerà interrogarsi anche sulla scuola e sulla sua capacità di cogliere determinati segnali, no, sindaco? Probabilmente sì. Probabilmente è una responsabilità collettiva di tutti quanti noi. Ed è c'è poco da provare a indorare la cosa, perché è terribile, bisogna stracciarsi le maniche e capire dove abbiamo sbagliato e come intervenire per il futuro, perché non è possibile che per 4 anni ci siano dei 10 ragazzini che abusano di un altro. Questa cosa segna la vita di tutti quanti loro, e non invidio in particolare i genitori del ragazzino abusato. Questa cosa insomma, gli distruggerà la vita, è qualcosa che fa male, veramente fa male. Insomma, è un fallimento di tutte quante le agenzie educative, di tutti quanti i soggetti che hanno il compito istituzionale di vigilare, educare, controllare, indirizzare, dalla famiglia alla scuola, alle chiese, alle associazioni, al comune. È un fallimento di tutti quanti noi. Grazie Antonio Pozziello, sindaco di Giugliano, per essere stato con noi. Marco Cardilli, delegato alla sicurezza, vice capo di gabinetto della Giunta di Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come vi state preparando alla giornata di domani, che si prospetta essere, anche se gli organizzatori delle manifestazioni dicono no, non ci saranno violenze, si prospetta essere una giornata a forte rischio violenze? Beh, noi abbiamo il dovere morale di credere agli organizzatori, e questo sarà il principio che animerà sicuramente tutte le manifestazioni. sono in un contesto importante qual è quello del riconoscimento del ruolo dell'Europa, a favore o a contro, ma viviamo in una città che ormai diciamo è abbastanza avvezza alle manifestazioni, ai cortei, quindi la vivremo... Cardilli, abbastanza mi sembra un eufemismo per Roma, insomma, diciamo che ce n'è una al giorno di manifestazione, quindi... Beh, sicuramente, ma insomma siamo nella capitale e ovviamente... è un centro nevralgico dove sì. È importante insomma il diritto alla manifestare e quindi non possiamo comprimerlo ed è giusto non comprimerlo. Cosa vi attendete voi, Cardilli? Beh, sicuramente ci attendiamo una giornata di grande immagine anche internazionale. Ovviamente questo sarà coniugato con un sistema di sicurezza che la nostra questura, la nostra prefettura ha studiato nei minimi particolari e che coinvolge anche il Campidoglio. Quindi siamo sicuri, anche perché veniamo da un'esperienza importante qual è quella del Giubileo, che si è conclusa veramente senza nessun tipo di problema e di criticità. Quindi sono tranquillo da questo punto di vista. È abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Per quanto riguarda il ruolo, il coinvolgimento del Campidoglio, in cosa è consistito? Beh, immagino ovviamente i vigili urbani dove sarà necessario, ma non con compiti di sicurezza, come ovvio. Poi so che anche l'AMA ha dovuto togliere un po' di cassonetti. Beh, questa è un'attività che facciamo, diciamo, di routine nel corso delle manifestazioni, quindi rimozione dei cassonetti, poi pulizia successiva e riposizionamento dei cassonetti. Ovviamente la polizia locale sarà presente anch'essa in forze con compiti di viabilità e di controllo ai varchi, perché ricordiamo che ci sono delle zone che saranno per un breve periodo interdette alla circolazione, quindi in questo la polizia locale darà un aiuto importante alle forze dell'ordine. Allora, io la ringrazio, grazie a Marco Cardilli per essere stato con noi, delegato alla sicurezza, vice capo di gabinetto della Giunta Capitolina. Noi adesso ci fermiamo qua. Allora, anche oggi abbiamo saltato, per così dire, il nostro appuntamento quotidiano con il terremoto, i riflettori che vogliamo tenere accesi sulle popolazioni colpite dal sisma. In realtà ce ne siamo occupati nella prima parte perché siamo collegati con Norcia, dove c'erano gli europarlamentari. Lunedì ci torneremo, avremo gli albergatori da Marche e Abruzzo che ci racconteranno un po' come vanno le cose. Traffico, ci risentiamo alla fine per i saluti.